9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, siamo al tema classico di questo dibattito italiano. Man mano che va avanti il confronto su come cambiare le regole del lavoro nel nostro paese, l'avete sentito, il presidente della Camera Gianfranco Fini ha fatto uno scarto, evidentemente contando sull'effetto di popolarità, che dire le due cose che ha detto dell'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne inevitabilmente provoca, perché è popolare dire che la Fiat deve tutto al contribuente italiano e quindi insomma non stesse lì tanto a minacciare la sua presenza in Italia, di rivederla, ed è popolare dire che Marchionne in definitiva sembra parlare più da canadese che da italiano. Resta da vedere poi se non sia proprio il fatto che sia più un manager di esperienze straniere consolidate di grande successo ad essere valso il fatto che poi il presidente Obama abbia affidato a lui e alla sua nuova Fiat quella senza contributi pubblici, quella per fortuna senza contributi pubblici, quella quindi libera di scegliere per fortuna per la prima volta in un secolo dove mettere gli stabilimenti senza dover contrattare quindi con la politica, e gli abbia affidato poi la nuova Chrysler, cioè la sfida del consolidamento in cui con lo spin-off sicuramente la Fiat entra. E a questo punto la domanda diventa se poi diventa solo associo azionista di controllo del terzo gruppo americano e resta solidamente piantata in due mercati che tirano molto, cioè il Brasile e la Polonia, e alla ricerca di un alleato che gli è sempre mancato per errori strategici di Torino in Cina, oppure se a tutto questo poi si continua ad aggiungere anche una presenza in Italia con i suoi 5 stabilimenti, poco più di 20.000 addetti operai, lo ricordo perché poi i numeri Fiat sono in realtà ridotti, ma è fondamentale capire se noi riusciamo a resistere con la manifattura dell'auto nel nostro paese. I commenti di oggi sui giornali si allargano a una finestra molto ampia. La cosa che mi ha sorpreso di più probabilmente è trovare sul Foglio di Giuliano Ferrara un commento in prima pagina di Guido Viale, che è uno dei più duri che ci sia su tutti i giornali italiani, perché leggo una frase: è evidente che con le sue apparizioni in pubblico Marchionne cerca di nascondere il vuoto di investimenti di nuovi modelli e ora finiti gli incentivi anche di vendite che caratterizzano l'azienda. E in buona sostanza questo l'esatto uguale giudizio che si trova su quotidiani come il Manifesto, come l'Unità, e testimonia che quindi in effetti nel giornalismo allineato e che si ispira a posizioni le più varie e diverse, ma in realtà come nella politica la durezza, l'energia, la ruvida chiarezza di questo Marchionne spacca, divide e in maniera trasversale riallinea le opinioni, provocando anche convergenze che la politica da sola o le ispirazioni culturali da sole su altri argomenti invece non provocano quasi mai. Ed è così che l'Unità quindi titola Avanti Cristo, addirittura Economia Primitiva, Marchionne come i padroni delle ferriere. E c'è un editoriale di Stefano Fassina, responsabile economico del PD, che dice: se vince il passato, vengono richiamate le posizioni di Bersani, che ieri diceva: ah, qui si vuole fare come in Cina. Non si vuole fare come in Cina, perché ricordo sempre che le regole nuove della produttività e del lavoro in Italia, a cui punta Confindustria con il nuovo accordo interconfederale, i 27 contratti che si sono firmati da allora, sempre con la CGIL, tranne in un caso, appunto quello dei meccanici, come nei due casi precedenti, la FIOM non l'ha firmato. In ogni caso queste regole nuove prevedono più produttività in cambio di più reddito reale, non più lavoro a parità di salario, come è avvenuto in Germania negli anni 2002-2007, quando, lo ricordo a tutti, grazie alla disponibilità di grandi sindacati come IG Metall, la produttività è salita in quei soli 5 anni, la produttività della manifattura è salita del 19%, mentre saliva solo del 6% nel resto dell'Europa, e da noi al segno negativo in quegli anni ed ha continuato ad averlo. E ripeto, in quegli stessi anni per più lavoro a parità di retribuzione l'effetto è stato che il costo del lavoro manifatturiero nell'auto tedesca rispetto all'aumento del valore medio della produzione è sceso del 14%. Ecco, questi sono i termini con cui bisogna confrontarsi. Ma in Italia la nuova Fiat, Marchionne, Confindustria con le deroghe ai contratti, i 38 casi di deroga analizzati ieri dalla FIM, CISL in un suo bello studio, con cui si sono salvati già 45.000 posti di lavoro in Italia. Ecco, nessuno propone qui di lavorare di più con la stessa retribuzione di prima come in Germania, o di lavorare di più con retribuzioni più basse come il sindacato ha citato a Chrysler. Qui si tratta di lavorare di più, difendere gli stabilimenti per avere più retribuzione detassata, che altrimenti non ci sarebbe. Ma questo punto sembra quasi cessare, non esserci mai stato. Mi colpisce anche che il giornale di Vittorio Feltri abbia un titolo: cara Fiat, vattene pure. dove è vero, nel confronto di Sergio Marchionne si dice che ha detto la verità, in Italia chi dice la verità è maledetto da tutti e rischia di essere ucciso, però dopo aver detto della Fioma, della CGIL, tutto, le critiche che è legittimo aspettarsi da Vittorio Feltri, si fa capire in fondo che insomma... c'è un po' qualche cosa che non piace di questa minaccia. Io devo dire la verità, a questo punto non solo indico il Sole 24 Ore con gli articoli equilibrati all'interno, con il commento di Guido Gentili che collega per esempio alla sgradevole verità detta da Marchionne un altro punto trascurato: l'amministratore delegato di Ikea ha detto guardate che in Italia se continuano a romperci le scatole ce ne andiamo. Allora se un gruppo come Ikea, nord europeo, considerato da tutti l'esempio delle nuove regole, si allinea e dice che in Italia non si può lavorare, beh, una ragione ci sarà, no? Ecco, una ragione ci sarà. Concludo dicendo, cosa c'è che minacci davvero un'uscita autocratica dall'Italia? Il ricordare che grazie a queste regole del lavoro, scritte quando in Italia non c'era ancora la globalizzazione, quando i mercati dei servizi e dei prodotti erano segmentati, le regole del lavoro sono queste nel nostro paese. Per questo si è intrapreso, d'accordo con una parte maggioritaria del sindacato, un percorso nuovo da 2 anni a questa parte, dopo anni di attesa. Ma perché dire la sgradevole verità, ricordarla che gli stabilimenti italiani di Fiat Auto rimanevano in perdita mentre gli utili si realizzavano in Brasile e in Polonia con impianti utilizzati alla massima capacità? Che cosa in questo è una minaccia? Che cosa significa parlare da canadese? Perché bisogna dire che ricordare questa verità sgradevole dovrebbe essere impedita dai contributi pubblici che per un secolo la Fiat ha ricevuto? Adesso non li riceve più e quindi lo scambio e l'influenza impropria dovrebbe essere terminata. Questa almeno è la mia opinione e io brindo a questa nuova epoca e non so se stia scritto nel destino futuro di questo paese che riusciremo a difendere la manifattura dell'auto italiana. La cosa che so è che o ci diamo queste regole nuove guardando i numeri dei nostri concorrenti, ciò che fanno i paesi concorrenti e tentando di fare meglio, oppure alla fine di bassa produttività e di grandi rigidità, non certo colpa dei dipendenti come se guadagnassero tanto, perché l'ho sempre detto che l'avvaloramento del reddito da lavoro nel nostro paese è la componente più bassa di questi anni, il problema da risolvere, e infatti tentiamo di risolverlo con più salario disponibile di produttività. Ma dire queste cose prendendola come una minaccia e con destra e sinistra che dicono Marchionne levati tu dai piedi e la Fiat l'abbiamo pagata e resta lì anche se perde, questa mi sembra una buona prova di una classe dirigente miope e che come al solito pensa ai loro calcoletti elettorali. Questa è la mia opinione. Sentiamo qualche reazione, la sentiamo ancora con la viva voce da cominciare da Marchionne e poi sentirete Buttiglione, Fassina e Fini. Abbiamo appena rilasciato i dati della trimestrale giovedì scorso e abbiamo annunciato che faremo circa 2 miliardi, più di 2 miliardi di utile operativo nel 2010. Nemmeno un euro di quei 2 miliardi è fatto in Italia. Siamo ancora in perdita. Cioè, lei sta dicendo che volendo Fiat potrebbe fare a meno dell'Italia? Io le sto dicendo che se dovessi togliere quella parte italiana dei risultati, la Fiat farebbe di più. Avrebbe fatto di più l'anno scorso, lo sta facendo adesso. Uno non può gestire delle operazioni in perdita per sempre. È stato inutilmente provocatorio verso un paese che alla Fiat ha dato tanto. Certo, oggi siamo in una congiuntura difficile per la Fiat in Italia e bisogna venirne fuori, ma c'è anche una grande disponibilità per venirne fuori e se se ne viene fuori, si viene fuori col sudore degli operai italiani. Non è bello dir loro quasi non vi guadagnate il loro stipendio. No, non ha detto questo, perché il loro stipendio se lo guadagnano. Sì. Non ci date profitti, non siete bravi come gli operai di altri paesi. Non è giusto... Bisogna invece puntare sul loro orgoglio, sulla loro voglia di fare. Se la Fiat non fa profitti in Italia non è colpa dei lavoratori, dipende dal fatto che la Fiat negli ultimi 10 anni almeno non ha fatto investimenti innovativi all'altezza delle sfide che aveva di fronte e ora basta minacce, bisogna capire quali contenuti ha Fabbrica Italia. È un po' paradossale perché se la Fiat è ancora un grande colosso è perché per tantissimo tempo è stato il contribuente italiano, è stato lo Stato che ha consentito... Domanda, mi spiegate, onorevole Buttiglione e Furio Colombo, dove l'amministratore delegato della Fiat ha insultato gli operai italiani? Perché io non l'ho sentito. Leggo Furio Colombo di oggi: l'amministratore della più grande impresa italiana, una delle principali d'Europa, eccetera, eccetera, tiene a far sapere che il nostro lavoro italiano è disprezzato nel mondo sia come efficienza sia come competitività. Dove? Dove l'ha detto? L'avete sentito? No, non l'ha detto, non l'avete sentito. Il problema non sono i lavoratori, il problema sono le regole del lavoro e la produttività. Però, fine della mia cosa, e sono appassionato solo perché non sopporto chi racconta balle. Lo dicono tanto dei giornalisti, e mi sembra però che la gara dei politici è ricominciata alla grande, di qualunque colore siano. Allora, sentiamo gli ospiti di oggi. Mi scuso, ho parlato troppo, starò zitto. Innanzitutto abbiamo con noi Mario Baldassarri, presidente della Commissione Finanze del Senato. Grazie al senatore Baldassarri, buongiorno. Buongiorno a lei, Giannina, agli ascoltatori. Rocco Palombella, segretario generale della UILM. Buongiorno Palombella. Buongiorno, buongiorno a lei. E Giuliano Cazzola, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera. Buongiorno. Buongiorno a lei. Presidente Baldassarri, faccia per così dire tara di quello che ha sentito da parte mia. Non le chiedo un giudizio sull'espressione di fini, le chiedo solo: abbiamo bisogno di dividerci sulla presunta italianità visto che non ci sono i contributi, oppure queste regole nuove secondo lei sono comunque utili? Ma intanto devo dire subito che io condivido al 100% quanto lei ha detto all'inizio inquadrando il problema. Sono totalmente d'accordo con quello che lei ha detto, con una specificazione. Qui, in questi soliti polveroni polemici molto localistici e molto provinciali e da cortile, occorre scindere nettamente il passato dal futuro. È indubbio che il passato, per troppi decenni, la Fiat nei decenni scorsi poggiava su un monopolio sul mercato interno italiano. Non dimentichiamoci che addirittura aveva quote del 50% in Italia, quindi era un'azienda italiana con qualche propaggine nel resto d'Europa. Poggiava sugli aiuti di Stato, fondi perduti, rottamazioni, prepensionamenti e quant'altro, e che se sommassimo negli ultimi 30 anni i soldi del contribuente italiano dati alla Fiat, probabilmente faremo qualcosa che sta tra 2 e 3 volte l'attuale capitalizzazione del gruppo Fiat. Ma questo è il passato. Proprio per questo, se si ripetono gli errori del passato, non si costruisce alcun futuro. Quindi la Fiat era un'azienda localistica con mercato in Italia che oggi non esiste più. La Fiat futura, presente e futura, non può che essere un'impresa globale. Quindi se si vuole costruire il futuro è la linea di Marchionne, non bisogna distinguere destra-sinistra su questo, da questo punto di vista, perché non è che ci siano alternative. O la Fiat si globalizza nel senso più pieno del termine, oppure non esiste nella competizione internazionale del mercato automobilistico. Ciò detto, il problema è verificare quali regole nel mercato del lavoro si possono e si debbono applicare in Italia per far sì che anche una parte della produzione Fiat possa essere localizzata in Italia. E la chiave di volta è quella che ha detto lei, Giannino. E cioè, qui non si tratta di dire più lavoro, più produttività, meno salario e quindi più sacrifici. Più lavoro e più salario. Più lavoro, più produttività, più salario. Questa è la sfida che è aperta anche tra le forze sociali. E francamente non è che si può dire astrattamente la Fiat resti qui o la Fiat se ne vada. A me pare molto riduttiva porre così il problema. Il problema è in quali condizioni la Fiat, che comunque deve essere un'impresa globale che opera a tutto campo nel mondo, può avere una parte significativa, importante nella sua radice, che è l'Italia. E poi ha citato l'ultimo argomento importante. Il problema vero è che nei decenni passati lo scambio perverso tra Fiat e politica è stato appunto quello degli aiuti di Stato e dei sussidi. Questo ha indotto la Fiat a dimenticare di fare concorrenza sul mercato internazionale, facendo i modelli, facendo l'innovazione, facendo la tecnologia. La Fiat negli anni passati è entrata in crisi perché non aveva modelli competitivi di automobili sul mercato. Francamente, io per tanti decenni personalmente ho sempre avuto automobili del gruppo Fiat, Alfa Romeo, Lancia, ed erano eccellenti, ma purtroppo a metà degli anni 90, guardando così come consumatore il mercato, ho visto che c'erano modelli di altre marche, ma non cinesi, coreane, ma per esempio tedesche, che erano migliori e costavano meno. Questo è lo scambio perverso. Lo scambio perverso fa fare alle aziende peggio il loro mestiere, cioè le aziende. Esattamente, l'effetto dei sussidi di Stato dell'aiuto di Stato è quello di far addormentare il cervello delle aziende. E non dimentichiamoci che appunto per troppi anni la Fiat ha smesso praticamente di produrre modelli innovativi. Oh, bene. Allora, se per il futuro dobbiamo avere un'azienda globale che crea modelli competitivi sul mercato, che gioca a tutto campo nel mondo, non deve farlo. Non vedo, ecco, non vedo proprio la contrapposizione tra, allora, la strategia che dice Marchionne e i commenti che sento fare da destra e sinistra. Cominciamo proprio con il punto, questo punto conclusivo. Uno degli effetti perversi dei sostegni era quello di indurre l'azienda a contare sul mercato italiano invece che a investire molto di più, come hanno fatto quasi tutti i concorrenti, perché l'intensità di capitale investito in tecnologie, tranne alcuni colpi fortunati che si devono agli ingegneri alla grande scuola Fiat, tipo multi-air, multi-jet, insomma, che hanno innovato la propulsione e la resa termodinamica energetica dei motori Fiat, bisogna riconoscere che gli investimenti dell'azienda sono sempre stati molto più ridotti di quelli dei concorrenti, e si vede naturalmente, e si vede. Ma detto questo, chiedo a Rocco Palombella, alcuni sostengono non solo, a dire la verità, oramai la Fiat, ma moltissimi osservatori, giornalisti, analisti, intellettuali, ma dove stanno questi modelli? Ma è possibile mai che non si capisce che è tutto una finta? Le chiedo, siccome c'è il 28 l'aggiornamento, no, del tavolo aperto per Fabbrica Italia con la Fiat, e siccome voi ci avete messo la faccia e siccome anche l'atmosfera di tensione nelle relazioni sindacali alle sedi della UIL come alle sedi della CISL, insomma, capitano cose che secondo me sarebbe meglio che venissero condannate da chi poi usa toni molto duri, allora le chiedo, dal vostro punto di vista, in chi ha scommesso la propria faccia e vuole controllare, cioè vuole contrattare le regole nuove come piano industriale, in realtà Marchionne ci fa, o semplicemente per quello che avete visto voi c'è da fidarsi? Perché se davvero si dovesse scoprire che poi tutto questo è una grande prova di forza, ma in realtà i 20 miliardi da investire, i modelli non ci sono, io capisco bene che per un sindacato come il vostro, come la CISL, come l'UGL, insomma, sarebbero bei problemi. E allora però per questo chiedo a lei, perché tendenzialmente tendo a fidarmi di chi, stando a quel tavolo, scommette la propria faccia su una cosa così importante. Che mi dice? Io sono convinto che Marchionne ha fatto due prove per verificare se effettivamente tutte le chiacchiere che vengono dette in giro poi effettivamente diventano fatti concreti. La prima prova è stato l'accordo di Pomigliano e la seconda è stata la sua intervista fatta a Rai 3, che è una conseguenza. Chi immagina che le cose sono state fatte così per puro caso si sbaglia. Allora, sull'accordo di Pomigliano, quando tutti quanti i dibattiti, compreso quello di stamattina, si dice che bisogna innovare le relazioni industriali, siamo in grado di fare gli investimenti, di intercettare gli investimenti, siamo in grado di farci carico di questo, di questo e di quest'altro, ognuno di noi, io temo che ormai questa vicenda rischia di essere politicizzata, così come diceva lei all'inizio, anch'io sono d'accordo sulla sua fotografia. Cioè, nel senso che ognuno adesso scarica su chi in questo momento qua ha avuto il coraggio di mettere, come si suol dire, i piedi sul piatto. Cioè, io sono stato uno di quelli, dopo le dichiarazioni di Marchionne di domenica sera, ad essere quello più, come si suol dire, più critico e più arrabbiato di tutti. Poi ho riflettuto e mi sono reso conto che l'amministratore delegato ha fatto la prima operazione insieme ai sindacati che si sono assunti la responsabilità. C'è una fabbrica che produce all'estero, produce già 2 milioni, 1 milione e 500 mila autovetture all'estero, e 600.000 se ne producono solo in Italia. Ebbene, c'è il sindacato che si assume le responsabilità, tutti dicono che si assumono le responsabilità, la politica si dice che si assumono le responsabilità, io trasferisco la produzione in Italia. Da questa produzione, dall'accordo di Pomigliano, questa è la prova di come ha reagito la politica e una parte sindacale, che poi dovrebbe gestire l'accordo. Cioè, quell'accordo è stato bollato come un accordo della violazione dei diritti della Costituzione, esatto. E non è nulla vero di questo, perché quello è un accordo innovativo che dà un minimo di flessibilità in più, un minimo di flessibilità in più, in cambio di 20.000 posti di lavoro. E che cos'è questa se non la possibilità di trasferire una produzione dall'estero in Italia? Ed è stata trasferita in modo ignobile, sembra Pomigliano la realtà dei diritti violati. Esatto, esatto. Ma ciò che succede a Pomigliano succede negli stabilimenti italiani. Ci sono stabilimenti italiani che quelle regole le hanno già applicato 10 anni fa. Io quelle regole le applico già 15 anni fa. in uno stabilimento normale, con 21 turni, non con 18, con 17 turni e poi con lo straordinario il sabato per non fare 18 turni. Quindi la prova è lampante. L'accordo di Pomigliano, che forse andrà in funzione tra 2 anni, che da 2 anni i lavoratori sono in cassa integrazione, è stato trasferito come l'accordo che ha violato i diritti. Quindi un imprenditore che, e noi siamo stati, voglio dire, gli unici che li abbiamo costretto ad investire 700 milioni di euro, altrimenti Marchionne non l'avrebbe mai fatto. L'esito del referendum è stato un referendum sbagliato, ignobile, perché un paese che ha quel tipo di disoccupazione, il 100% doveva votare sì, altro che il 63%. Il problema è che si è scelto come sempre il populismo, un sindacato che mette al sicuro gli investimenti col 63%, tutto il resto si diletta nel dire che è un accordo sbagliato, e quindi anche i partiti della sinistra, anche i partiti, ahimè, della destra, di governo, sono stati timidi, perché si sono fatti prendere dall'onda che quello era un accordo completamente sbagliato. Allora, la interrompo un secondo, riprendiamo da lei, perché io penso che forse, io capisco chi ha opinioni diverse, capisco che improvvisamente c'è una specie di ondata autoritaria, capisco chi se ne fotte dei numeri, dell'auto, della produttività, dice se in Francia il Stato mette i soldi, Loris Campetti, ero ieri ospite del TG3, mi dice ma perché se la Spagna mette i soldi pubblici nell'auto e tiene aperti gli stabilimenti dicendo alle aziende cosa fare, per non dobbiamo farlo anche qua. Io gli ho replicato perché qui sono finiti i soldi pubblici, poi io aggiungo grazie al cielo. Però al prescindere da tutto questo, io penso che le parole di Rocco Palombelli, di quel sindacato che ci ricorda che da anni in tutti i settori si fanno già queste cose e che così si difende il lavoro, in che cosa devono sembrarci o sembrarvi delle parole di servi dei padroni invece che di chi rappresenta i lavoratori per tenere aperti i posti del lavoro e guadagnare soprattutto di più, aggiungo, rispetto a prima. Io non lo so se siamo tutti impazziti in questo paese. Può essere che su questa vicenda Fiat davvero una parte della politica, che prescinde da sinistra e destra, e una parte del sindacato abbia deciso di giocare una grande partita. Però non è la partita contro questa Fiat che si mondializza, no, è una partita contro la storia, cioè di chiuderci dentro, tapparci le orecchie e dire quanto è bello un mondo che non esiste. Pubblicità. Eccoci tornati in studio a Giuliano Cazzola, che è vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, ma soprattutto è uno degli osservatori più di lungo corso di tono equilibrato della trasformazione del mercato del lavoro italiano, delle relazioni industriali. Chiedo, si aspetta a questo punto che nel tono generale, che è molto caldo su molti argomenti politici all'interno della maggioranza dopo quest'estate, e si vede, insomma, il presidente Fini torna ieri sulla giustizia a dire vediamo un po' quanto duriamo oppure no, ma si aspetta che il tono generale di calore della politica si riverberi anche su questa vicenda, la ingarbugli, la impasticci, e che quindi sia ancora più difficile per chi è stato seduto a quel tavolo e protagonista di quel tavolo, come la Wilm, come la CISA, andare avanti pensando ai numeri e trattando le cose concrete, oppure invece lei pensa che al netto di tutto questo comunque il blocco sociale che si è creato, la Fiat da una parte, Confindustria dalla stessa parte, ma i sindacati che hanno accettato questa impostazione, questa sfida, è in grado di reggere malgrado le pressioni della politica, dei media, degli intellettuali, degli scrittori, di tutti quelli che non sanno di numeri ma naturalmente danno giudizi. Che pensa Cazzola? Guardi, innanzitutto voglio dire che sono al 100% d'accordo con lei, con il senatore Baldassarri e con il segretario generale della UIL. Anch'io sono scandalizzato per questo vergognoso dibattito che c'è sul caso Fiat. Peraltro voglio ricordare che nessun manager canadese, questo lo voglio dire in maniera molto chiara, si infilerebbe mai in una sfida complessa come quella dello stabilimento di Pomigliano, dove è una scommessa quella di renderlo produttivo, viste le tante criticità che questo stabilimento ha. Quanto alla sua domanda, dipende molto, perché io credo che per la Fiat le scelte siano abbastanza irreversibili, no? Però ecco, essere trattata pesce in faccia, essere svilaneggiata come avviene da noi, no? Dove tutti si sono scatenati contro questa operazione, potrebbe dare luogo ad un atto dimostrativo. Io credo che se la Fiat fa un'operazione Italia ha anche la sua convenienza, non lo fa solo per rispetto delle sue radici, quindi io credo che poi il tessuto sociale sarà in grado di tenere. Però è veramente una pagina vergognosa questa. Guarda, io dico sempre una cosa, noi è mesi che discutiamo sulla Fiat dicendo gli articoli di oggi, persino il responsabile economico del PD, insomma, di un partito che si candida ad essere di governo, dice queste cose su un investimento importante come quello che alla fine devo fare in Italia, ma noi in questi stessi mesi abbiamo visto due grandi imprese, che peraltro il denaro pubblico l'hanno preso e forse continuano anche a prenderlo, come Telecom e Unicredit, che mettono per strada, ovviamente poi troveranno gli ammortizzatori sociali, il pensionamento anticipato, alcune migliaia di dipendenti. Esuberi per alcune migliaia di dipendenti nel giro di qualche anno, no? Io ho fatto un conto, arriveremo sui 7-8 mila e tutte le organizzazioni sindacali hanno firmato questi accordi. Io non dico che non si dovesse fare, perché i processi di ristrutturazione vanno fatti e queste aziende hanno bisogno di ristrutturarsi, però vengono visti come dei benefattori, cioè non c'è un professor Gallino che dica nulla, che veda non so, lo stress di questi lavoratori che vengono messi fuori dal posto di lavoro, no? Non c'è una riga che dica nulla su queste cose qui, quando in realtà una Fiat che in tutto sommato consolida l'occupazione, che colloca gli stabilimenti italiani in una dimensione internazionale, diciamo di ricostruzione, ecco, di una sua presenza nel mondo, viene trattata come se noi fossimo, come se fosse in buona sostanza portasse avanti un modello cinese, portasse avanti, calpestasse la Costituzione, violasse i diritti dei lavoratori. I diritti non sono abusi del diritto, come purtroppo testimoniano le criticità di Pomigliano. Posso dire moltissime mail che stiamo ricevendo. Giannino, sei un fascista. Giannino, non hai chiamato la FIOM. Ricordo a tutti che ho fatto quattro trasmissioni, di cui una sola con Landini, due con Cremaschi, una con i rappresentanti degli stabilimenti, e in cui il punto di vista della FIOM mi sono sforzato in tutti i modi, prima che poi Landini si rifiutasse di tornare, Cremaschi è tornato, abbiamo parlato anche del suo libro di recente uscita di Giorgio Cremaschi, quindi figuratevi, il problema non è quello di ridurre ogni volta la questione al minutaggio tra chi è a favore e chi contro. Oggi mio giudizio è questo: da 24 ore le parole che abbiamo sentito testualmente pronunciate da Marchionne, che dice gli stabilimenti italiani sono in perdita, altrove noi guadagniamo, la regola deve essere che si guadagna anche in Italia, queste parole sono vittime di uno dei più colossali atti di fraintendimento dovuto a malafede sindacale, politica, intellettuale, culturale, giornalistica del nostro paese. Ecco. Allora, guardi, in Italia nell'ultimo anno sono stati stipulati 60 contratti nazionali di lavoro da tutte e tre le organizzazioni sindacali, praticamente senza conflittualità. Si discute solo del caso dei metalmeccanici, che in realtà è l'uomo che morde il cane, no? Cioè è veramente l'eccezione, no? Però sembra che in Italia non ci siano più contratti nazionali di lavoro, i rapporti sindacali siano rotti, i padroni calpestano i diritti dei lavoratori. Un'altra cosa, l'accordo di Pomigliano determinerà un incremento retributivo fra i 3 e i 4 mila euro l'anno, tassati al 10%. Questo vuol dire che determinerà, ovviamente, si lavorerà di più, si lavorerà meglio, no? Ma questo determinerà un incremento retributivo pari a due rinnovi di contratti nazionali di lavoro, e questa cosa gli italiani non la sanno né l'una né l'altra. È veramente questa è disinformazione. Palombella, lei oggi rilascia un'intervista al Riformista in cui dice, questo è il titolo, leggo: basta atti di fede, Fiat dia risposte. Nella vostra valutazione, rispetto a come sta procedendo il tavolo con l'azienda, i tempi e le modalità alle viste, quali dovrebbero essere? Allora, Marchionne ha detto due mesi, io ho detto lasciamo perdere i tempi, nel senso che si può fare anche prima, si può fare, è il merito quello che conta. Io, a cose che ho criticato la Fiat e continuo a farlo anche questa mattina. Cioè, no, ma ci mancherebbe altro, voi fate il sindacato ed è giusto. Quello di cioè, noi abbiamo fatto, abbiamo utilizzato un modello, cioè Povigliano, l'azienda ha detto io trasferisco la produzione, gli investimenti e salvaguardo i posti di lavoro. Abbiamo detto continuiamo e vogliamo vedere il piano industriale. Loro, arrivato a un certo punto, intimoriti della situazione che si è creata nel paese, hanno detto diteci a prescindere se siete d'accordo. Se siete d'accordo sul piano, sul Fabbrica Italia, ci dovete dire sì. Se sì, poi noi vi presenteremo i modelli e gli investimenti. E noi abbiamo detto non siamo d'accordo su questo schema. Voi ci dovete dire gli investimenti e i modelli e noi siamo d'accordo a discutere e a trovare le soluzioni possibili, immaginabili, affinché gli stabilimenti siano competitivi e che i lavoratori guadagnino di più. Marchionne ha aggiunto un'altra cosa, quella di voler dare i soldi giustamente alla produttività, cosa che a Pomigliano non ci sono soldi sulla produttività. Ciò che diceva Baldassarre riguarda i turni, il terzo turno in più è chiaro che guadagnano di più. Il problema è che bisogna incentivare il lavoro. Per poter incentivare il lavoro bisogna stabilire i premi di produttività che ci sono in Italia e funzionano alla grande. Quindi se c'è questa grande disponibilità, perché non Marchionne il prossimo passo, cioè quello successivo, a partire dai prossimi giorni, sia quello di dire con il sindacato che si assumerà le responsabilità, con la politica che si assumerà le responsabilità, con tutte le persone che ritengono effettivamente l'Italia un'industria manifatturiera, se l'industria manifatturiera ha un successo in Italia, quelli saranno tutti d'accordo, cioè devono dire quali sono i modelli, i tempi e gli stabilimenti come vengono riorganizzati, poi ognuno si assumerà, come sempre succede in Italia o nel mondo, le responsabilità. Questo è quello che io chiedo a Marchionne, deve immediatamente, a partire dai prossimi giorni, presentare nel dettaglio, dire che i modelli sono già pronti, sì, questo va bene, dire che l'ha presentato il 21 aprile, questo va bene, ma non conosciamo nel dettaglio investimento, stabilimento per stabilimento, perché lo stabilimento di Cassino ha meno problemi dello stabilimento di Mirafiori. Certo. Cioè, ha meno, perché lo stabilimento di Mirafiori è, non ha modelli, lo stabilimento di Cassino ha invece modelli che vanno bene. È inevitabilmente, non è sufficiente. È inevitabilmente. Quindi, io penso l'assenteismo che... L'assenteismo a Cassino, certo, è fisiologico, è sotto, certo, la media italiana, quindi non c'è bisogno di andare a dire ai lavoratori di Cassino che siano uguali a quelli di altri stabilimenti, sono lavoratori invece che tutto sommato non c'è problema. Allora io dico, bisogna evitare di mettere tutti in un calderone, dare giudizi sommari, invece ci vogliono giudizi di merito e loro, il sindacato che si è assunto le responsabilità, anzi io dico il sindacato che ha fatto una cosa normale, i paesi normali queste cose le assumono normalmente, non siamo degli eroi, il vero problema è che in Italia passa tutto come una cosa normale. Allora io dico, necessita che Marchionne adesso, quando ho detto all'inizio ha fatto la seconda prova è stata l'intervista, ci ha voluto verificare la politica e tutto il mondo come si dichiarasse intorno alla sua esternazione, e purtroppo si sono dichiarate così come lui aveva previsto, cioè quello che c'è un attacco massiccio, strumentale nei confronti di questa azienda. Perché questo fa audience, perché questo fa le manifestazioni di 100.000 persone in mezzo alla piazza per protestare non so su che cosa, però io dico che questa è la cosa che viene fuori. Esatto. Arrivato a questo punto bisogna a questo punto stringere l'azienda, perché poi oltretutto più si alzeranno le polemiche, merito, più chi sta al tavolo merito e dà la cosa, e se non arrivano risposte di merito più sarà in difficoltà. Questo secondo me è ciò che probabilmente si rischia di verificare. Tanto più si alza il tono, tanto più le legittime richieste, il sindacato che sta trattando, cioè adesso ci dite dove, quanto utilizziamo queste nuove regole, e tanto più finiscono per mettere tutti nei guai se le risposte non vengono dall'azienda. Ora l'informazione sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio, alcune rapidissime chiamate, poi l'opinione finale del presidente Baldassarre. Sentiamo Ennio da Roma, prego Ennio. Buongiorno, senta, io non ho sentito gli interventi dalle 9.30 in poi proprio perché ho ricominciato a lavorare. Però la cosa che sento sempre riguardo questi discorsi è che le ragioni di parte sono tutte condivisibili, sia quelle di Marchionne sia quelle dei lavoratori. Il discorso qui è che manca una visione globale di riorganizzazione della società da parte della politica. Secondo me i due galli, cioè sindacati per i lavoratori e Marchionne, in questo caso, ma questo riguarda tutti i settori della società, dovrebbero smettere di litigare, mettersi d'accordo e poi andare dai politici e dire noi ci siamo messi d'accordo. Ennio, io ti interrompo perché è esattamente quello che è successo. Cioè, ti sfugge che con gli accordi interfederali del 2009, tutti i contratti firmati d'accordo con presa la CGIL, tranne che nei meccanici, è esattamente quello che è successo. Quello che è in atto è che vi spacciano la rappresentazione in totale malafede di uno scontro che in realtà è animato da una minoranza assoluta, di cui io rispetto il legittimo punto di vista, quello di interrompere la storia, di rimettere, diciamo così, le ragioni nelle mani di un conflitto antagonista invece che di una convergenza, più produttività, più salario. Cioè, e questo avviene su una vicenda che riguarda, mi dispiace dirlo perché ho il pieno rispetto dei lavoratori della Fiat Auto, ma in realtà riguarda ormai 20.000 unità di lavoro, mentre il resto delle ristrutturazioni avviene nel silenzio totale, come ricordava Cazzola. Ti rendi conto, Ennio, che questa è un'operazione di mistificazione politica e che bisognerebbe che voi prendeste a calci nel culo chi ve la ammannisce per televisione e nei giornali? Perché a un certo punto significa essere in totale malafede, e lo dico con pieno rispetto per le posizioni della FIOM, di Cremaschi, di Landini, di chi ha una visione antagonista del mondo del lavoro. Loro fanno il loro mestiere, sono minoranza, a Pomigliano si è votato, hanno perso, e quello riguarda Pomigliano, e il resto della trattativa va avanti con gente come Palombella, con gente con la CISL. Tu dici lo scontro tra i lavoratori e l'azienda, ma perché chi è rappresentato dalla UILM, dalla FIM CISL, dall'UGL, dalla FISMIC non conta niente? Non esistono, perché lo ha stabilito il direttore di Repubblica, il direttore dell'Espresso. Ma quando è che aprite gli occhi? Mi state tutti insultando, molti di voi, dicendo che sono un fascista servo dei padroni. No, io sono cresciuto in un quartiere operaio e credo di aver criticato tantissime volte la Fiat che beccava i soldi della politica e in cambio con la politica faceva affari e metteva gli stabilimenti dove non li doveva mettere. Adesso il mondo cambia e voi dite invece che c'è lo scontro tra lavoro e impresa. Ma può essere che io non capisca. Sono molto energico nel commentare, però penso che la malafede di cui vedo impregnata tanti miei autorevoli colleghi di giornali indipendenti borghesoni, beh, quella mi dà più fastidio di voi che pensate giustamente invece che ci sono i diritti del lavoro in questione. Mi dà molto fastidio. Marco da Modena, prego Marco. Buongiorno a tutti intanto. Volevo fare due considerazioni soltanto. Uno, che la malafede sta anche dai dirigenti di Fiat come da tanti dirigenti di tante industrie. Primo, perché lo stipendio che c'è, la differenza che c'è tra uno stipendio di un operaio che prende 1.200 euro al mese e un dirigente che lo prende 450 volte di più, intanto cominciamo a tagliare quello. Questo è uno. La seconda considerazione è questa. Perché lui va a aprire in Polonia o in Slovenia o in Croazia, dove la vita costa un decimo? Perché non prova a aprirle in Germania o in Francia, le fabbriche della Fiat che vuol chiudere qua? Io dico soltanto questo. Io sono 30 anni che faccio l'operatore del settore, ho un'autofficina, quindi riparo automobili. E la Fiat ha sempre mangiato addosso a tutto e a tutti. Adesso che le cose vanno male per lei, va all'estero. Ma come vanno male per lei? Adesso, perdoni, la Fiat è impegnata, è in America, torna a 2 miliardi di utile, ma perché dobbiamo dire una cosa per l'altra? Ora che la Fiat è impegnata in un tentativo che non è mai riuscito in un secolo di globalizzarsi ed entra con il terzo gruppo negli Stati Uniti, e lì ci resterà perché lì c'è una piena compartecipazione del sindacato e dello Stato che ci ha messo soldi, e poi se ne uscirà. Mi spiega perché noi dovremmo ragionare che dobbiamo preferire che se ne vada dicendo che non sanno fare le cose e guardare a braccia conserte, poi ridendo a quel punto, non capisco, o piangendo, non lo so, che restino invece solo in America, in Brasile, in Polonia, e che si alleni con qualcuno in Cina? Questa è la realtà che dicono i fatti. Non voglio polemizzare con lei, lei ha ragione in tante cose, che le auto Fiat il mercato le bocci perché evidentemente sono meglio quello dei competitor in tanti settori, è ovvio, ha ragione lei. Capisco che lei dice ha mangiato anche su come era organizzata la rete commerciale, non dico di no, ma dico, ma perché bisogna pensare che sia meglio che adesso fallisce questa richiesta di nuove regole? Io questo non riesco a capirlo. Presidente Baldassarre, le chiedo una previsione finale. Se dovesse, per la lunga esperienza che le ha del mondo, degli Stati Uniti, delle vicende economiche di questo paese, lei pensa che questa vicenda verrà influenzata molto dalle polemiche politiche che secondo me cresceranno fino al diapason nei prossimi mesi, o pensa che si potrà costruire una specie di segmento separato, un compartimento nel quale tutte le tensioni della politica non riescano a far esplodere anche questa vicenda? Lei come la vede? Ma io ho anche una lunga esperienza di vita italiana e quindi partirei da una considerazione. Noi per decenni abbiamo impostato tutto in un rapporto molto stretto, molto forte fra alcune grandi famiglie industriali e lo Stato italiano, indipendentemente dal colore dei governi. Questo, ricordo per quanto riguarda la Fiat, una vecchia pubblicità che faceva la Fiat dicendo, pubblicizzando la Fiat 131 Mirafiori. La pubblicità decantava le ottime qualità di quell'automobile e poi si concludeva in questo modo: e fra 10 anni voi comprerete, cambierete la Fiat 131 Mirafiori con un'altra Fiat 131 Mirafiori. E la realtà è che invece i consumatori dopo 3-4 anni hanno cominciato a comprare la Volkswagen, l'Audi, la Mercedes, la Renault e quant'altro. Questo è il nodo, diciamo, dei decenni passati, il nodo del passato, l'intreccio Stato, grandi imprese con uno scambio perverso che ha portato anche ad addormentare i cervelli dentro le grandi imprese. Seconda considerazione, Giannino, nei momenti di transizione la Fiat ha sempre avuto un manager esterno che è riuscito in qualche modo a svegliare la strategia industriale della Fiat. Valletta negli anni 50, Romiti all'inizio degli anni 80, vi ricorderete, ecco, la marcia dei 40.000, e oggi Marchionne. Terza considerazione, quando all'inizio, a metà degli anni 90, soprattutto i governi di centrosinistra dilagarono con gli slogan delle privatizzazioni, le poche grandi famiglie italiane, in realtà, vedendo che il loro mercato manifatturiero interno monopolistico si stava sgretolando, molte di quelle famiglie sono saltate a piedi pari nell'ambito dei servizi ex pubblici privatizzati, ma mantenuti in monopolio. Lo citava Cazzola, il caso Telecom, il caso per esempio delle autostrade. L'unica forse ex vecchia grande famiglia, che è quella della Fiat, è rimasta nel settore manifatturiero e adesso vuole diventare e deve diventare un'azienda globale. E a questo punto io, purtroppo, siccome il tempo è tiranno, le devo levare la parola dicendo, e quindi la mia speranza è che tutti quanti diamo una mano senza rinunciare a nessuno ai propri diritti, ma senza anche raccontare palle, come vedo che tanta informazione continua a fare, contribuendo a disorientarvi voi in ascolto. Grazie a Baldassare Palombella Cazzola, grazie in regia Carmelo Lauricella, in redazione Alessandro Marco Tulli e l'assistente della diretta, grazie a cui siamo andati in onda anche oggi, l'ottimo Franco Piantanida. Linea al giornale radio.